Ci siamo? Ci siamo, ragazzi. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Abate, si allarga il cross, basso per Niang, c'è Bacca! E il Milan la sblocca con Carlos Bacca, 1-0. Palla verticale a cercare Salah, il petto e poi però Perotti con il Sharawi in mezzo, Perotti fino in fondo, cerca il Sharawi e lo trova! Ed è 2-0 Roma! Ed è ancora Faraone! Ed è punto esclamativo su una vittoria che mancava dal 25 ottobre! Calcio d'angolo per l'Inter, pallone allontanato, Mourinho lo schiaccia, prova Icardi a tenerlo, Miranda prova a calciare e poi alla fine Mauro Icardi fa 50 gol in Serie A, 9 in stagione, come 9 e il suo numero di maglia, l'Inter è in vantaggio. Zárate parte ancora da fermo, Zárate va sul destro, va in porta Zárate, il primo gol in viola, è bellissimo, importantissimo, Fiorentina in vantaggio nel recupero, un'invenzione di Mauro Zárate. Grande giocata di Cuadrado, splendido, Cuadrado in area, la mette in mezzo, rete, autogol, Juventus in vantaggio, ma capolavoro di Cuadrado. Poi Insigne. Il verticale per Callejon che scappa in posizione regolare anche stavolta. Callejon è solo davanti a Marchetti e infila la palla in porta con un comodo pallonetto. 2-0 per il Napoli al minuto 27. 800 24 00 24, telefoni aperti da qui fino alle 15.30, 349 238 6666 per i vostri messaggi via sms, via whatsapp. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Federico Binder, redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo, non so da dove, ciao Pier. Da Milano. Sì, da qualche posto a Milano. Sì, Pier. Mediaset, stamattina abbiamo presentato, anzi approfitto, la Fabbrica del Sorriso, che sono tutte le attività charity del gruppo, e ho scoperto che hanno raccolto, perché non c'entro niente, 65 milioni di italiani, quindi insomma, anche quest'anno ci sono tante associazioni, il tema dei bambini, insomma, mi ha fatto molto piacere. Però parliamo di calcio. Sì, parliamo di calcio. Hanno vinto tutte, quindi la notte dei record, perché questa è stata la notte dei record, quello della Juventus, le 13 vittorie consecutive, quello del Napoli che riporta indietro l'orologio del tempo all'era di Maradona, 7 vittorie consecutive. La notte dei record ha partorito un topolino, Pier. Tutto come prima in testa, ammesso che abbiano lo stesso peso, ad esempio le vittorie del Milan e del Napoli rispetto a quelle dell'Inter, della Fiorentina e della Juventus. Sì, ha partorito il topolino, ma innanzitutto non erano tutte uguali le partite. Cioè, secondo me le vittorie del Napoli, della Roma, anche del Milan ottenute fuori casa hanno un peso particolare. Fiorentina e Inter hanno brillato poco, però hanno portato a casa 3 punti. In questo momento non era scontato, tra l'altro tutte e due senza il proprio allenatore, quindi con questa analogia curiosa. È chiaro, il risultato alla fine dice che è tutto immutato, però insomma, ecco, per esempio il Napoli adesso è a un passo dalla possibilità di andare allo Juventus Stadium avanti in classifica, con tutto rispetto per il Carpi, ovviamente tutti i tifosi del Napoli che fanno bene a toccare il cuore, quindi già lo so che De Luca starà facendo... Sì. Tutta una serie di cose, però insomma ieri era un test complicato, l'avevamo detto, anche se io i pronostici clamorosi, sì, ma guarda, appena scritto un amico su WhatsApp, volevo fare complimenti a Pardo per aver previsto la vittoria dell'Hellas Verona. Ma guarda, quasi tutto ho beccato, il pareggio della Samp, vabbè, all'ultimo minuto, la vittoria del Verona, la vittoria del Milan, la vittoria, anzi addirittura c'è una perla, perché Genta su Fiorentina Carpi ha detto Fiorentina facile, non lo so, mi sono fermato lì e per poco non succedeva, quindi sì, ieri veramente sembrava c'è anche un divino. Pizzico di casualità in tutto questo, mi è venuto in mente, Mi è venuto in mente, anche vedendo ieri ad esempio Lasagna pareggiare a Firenze, ma poi la Fiorentina pescare il jolly di Zarate, ripensando ai danni che aveva fatto Lasagna all'Inter, pensando anche all'incrocio dei rigori di Berardi, sempre a San Siro, e invece l'altra sera contro la Roma. C'è anche molto di casuale. Il calcio è questo, e vale sempre, vale comunque. Poi è ovvio che soprattutto nelle 38 partite, nella continuità del campionato, nel lungo periodo, devi trovare un equilibrio. Se la squadra migliore vince, non c'è discussione. Però nella singola partita gli episodi possono contare molto. Insomma, noi abbiamo giustamente celebrato, ed è giusto farlo, la vittoria del Milan nel derby l'altro giorno, ma rimane il sospetto che se Icardi avesse tirato il rigore 2 centimetri più a sinistra, probabilmente parleremo di un'altra cosa, no? Quindi poi il calcio è questo, è tutto un equilibrio sopra la follia, come direbbe Vasco. Sì. E però, insomma, ieri è stata una giornata secondo me interessante. Il Napoli ne esce, secondo me, rafforzatissimo come forza. Poi, se vuoi, parliamo anche di burrazzisti. No, di cori, guarda, ne parliamo subito, perché ce lo stanno chiedendo anche gli amici da casa. C'è chi dice Pioli scandaloso, c'è un altro amico che scrive: ora i tempi sono maturi per fermarsi e riflettere, dire basta al razzismo negli stadi italiani. Quello che è successo, io credo lo sappiano tutti. Ieri sera, Stadio Olimpico, Lazio-Napoli, burazzisti e becerume vario da stadio. La scelta, io credo coraggiosa, di Errati, secondo caso nella storia recente del calcio italiano, di fermare tutto per qualche minuto. Poi vedremo oggi il giudice sportivo che conseguenze prenderà per la Lazio. Sarri e Pioli, due modi diversi di vedere la cosa. Io avevo parlato con il quart'uomo poi minuti prima, gli avevo detto di fare qualcosa perché la situazione stava diventando un po' imbarazzante e il ragazzo mi sembrava anche un po' andato in difficoltà mentale, e quindi penso che Errati abbia fatto quello che doveva fare, ha fatto benissimo. Ma io sinceramente devo dire la verità, io fossi stato al posto dell'arbitro non avrei fermato la gara. E poi è chiaro che questi cori non vanno bene, non ci vuole rispetto, ci vuole educazione, ma anche noi, io non credo che fossero solamente o comunque cori razzisti, perché anche noi abbiamo giocatori di colore e i nostri giocatori sono rispettati. Io avrei proseguito, però poi l'arbitro è lui che aspetta di decidere e ha deciso così e c'è stata un po' di confusione. Questo Pioli, parere personale, c'è un po' di confusione anche in testa dei protagonisti del calcio. Sono i ruoli, purtroppo sono i ruoli. Bisogna anche avere una coerenza. Io capisco che tu sei l'allenatore della Lazio, capisco tutto, il condizionamento ambientale, il fatto di... però... No, ma certo, infatti io stamattina mi sono svegliato ripostando una foto di Instagram di Keita, che invece, a differenza di Pioli, con la mente un pochino più fresca, probabilmente analizzando meglio le cose, il concetto fondamentale è che conosco Pioli e so benissimo che so benissimo che non è un razzista, dov'è? Quindi però è ovvio che ci sono dei momenti in cui bisogna avere un pochino più di coraggio, secondo me, nel dire le cose come stanno. Le cose non possono andare avanti così, perché poi è evidente, sarà anche vero, io penso che la grande maggioranza delle persone che fanno queste robe qui, poi se ti ci metti a parlare, probabilmente non sono razziste, probabilmente devo dire. Però è anche vero che aderiscono a una cosa che non è accettabile, che non è tollerabile. Non è tollerabile nemmeno per provare a disunire l'avversario. Sarri dice una cosa, dice Koulibaly era scosso. Però comunque così non si può fare, cioè non puoi per disunire il tuo avversario usare quella cosa lì. Mandalo a fanculo, digli che fai quello che puoi fare. Ci sono mille modi, senza toccare il colore della pelle. Capito? Però il colore della pelle, in fondo, è come il discorso che abbiamo fatto sull'omofobia. Il colore della pelle rimanda a una serie di tragedie che ci sono state e purtroppo esistono ancora nel mondo. L'apartheid in Sudafrica, paese bellissimo dove abbiamo vissuto un grande mondiale, ci sarà fino a pochi anni fa. Ci sono ancora oggi in sacche e luoghi della terra fenomeni di razzismo, quindi non si può scherzare su una roba del genere, non è uno spottò, è un'infamia, non è uno spottò, è una cosa che umilia le persone che fanno quei burrazzisti. Quindi complimenti a Keita. Sì, è un po' meno a Pioli, lo diciamo senza paura, perché quello che diciamo a Pioli è coraggio. Ecco, capisco la situazione, ma non si può sempre fare 0-0. C'è anche la possibilità di restare allenatore della Lazio e vivere tranquilli nella propria città, dicendo che ieri Irrati ha fatto non bene ha fatto benissimo, è stata la cosa più bella di questo mercoledì di calcio, così almeno la pensiamo noi. Poi leggiamo tutto quello che ci state scrivendo. 800 24 00 24, ci fermiamo al traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Questa partita ci ha riportato un po' con i piedi per terra, perché dopo il 4-0 di domenica c'era un po' troppa euforia all'interno e all'esterno della squadra. Invece questa partita di oggi ci ha fatto capire di nuovo, ricapire, che per vincere le partite, per vincere il campionato, o perlomeno lottare il campionato, bisogna passare attraverso queste partite, e le partite facili non esistono. Oh, c'è chi ci chiede perché parliamo ancora di razzismo. È solo un modo di colpire quel pagliaccio del presidente che abbiamo. Questo credo sia un tifoso della Lazio. C'è un altro amico che scrive: cosa abbiamo fatto noi laziali per meritarci Lotito? Cosa ha fatto Lotito anche per meritarsi la gente che ieri, sapendo benissimo che cosa andava incontro, ha fatto quello che ha fatto, Pier? Perché adesso sì, guarda, che per contestare il presidente si faccia quello che è stato fatto ieri e tante altre volte, io credo sia l'ennesima deriva che mi fa dire, io lo dico, è l'occasione buona per chiudere e buttare via la chiave per un po', per quella curva lì. Guarda, io ti dico questo, secondo me il rapporto fra Lotito e i tifosi della Lazio è un tema importante, perché la Lazio è una storia ovviamente gloriosa, che si basa sul concetto della razzialità, sul concetto delle bandiere, ed è un tema che abbiamo affrontato qualche volta con tutti i convocati e che secondo me merita ancora di poter essere affrontato con Plastino, con Cruzani, con chiunque, no? Con le bandiere della Lazio, perché in effetti nei confronti di Lotito c'è un tipo di contestazione che non è soltanto quella di una piccola frangia della curva, ma è anche da parte di molti tifosi, diciamo, di altri settori. Detto questo, se guardiamo la storia della Lazio dal punto di vista di trofei e di andamento, io credo che Lotito non sia certamente il peggior presidente della storia della Lazio, perché comunque l'ha salvata in una maniera che può essere anche discussa dal punto di vista, diciamo, più complessivo, dal fallimento. È riuscito a spalmare un debito che era un debito enorme e in questi anni comunque l'ha tenuta a dei livelli buoni. La Lazio ha vinto la Coppa Italia, che è ovviamente in cima al pantheon delle gioie biancocelesti col gol di Lulic e degli incubi romanisti, ha vinto un'altra Coppa Italia contro la Samp, in qualche caso si è qualificata per i preliminari Champions League, l'ha anche giocata e qualche volta è mancata luce. È andato anche sopra squadra, forse il par nel senso di quello che è stato la Lazio storicamente. C'è altro, lo sappiamo bene, c'è altro, e quando parli con molti razziali, ripeto, anche con molti razziali non esattamente a prioristicamente contrario allo titolo, te lo dicono. Quindi questo è un tema che, anzi, secondo me possiamo affrontare tre volte. Sì, ma magari lo facciamo dopo le 14:30, che c'è Michele Plastino, così ragioniamo sull'ambiente Roma. Però pensare che quello sia il brodo di cultura da cui nasce quello che abbiamo sentito ieri, Pier, è profondamente sbagliato. Ho sentito della partita, l'ho vista, ho sentito tanti lo titolo vaffa oppure pezzo di, e quella comunque è una critica a una persona sulla quale si può discutere. I burrazzisti nei confronti di Koulibaly o i cori contro il Vesuvio sono un'altra cosa, quindi cosa c'entra lo stesso? Assolutamente. No? Fammi salutare Gianni De Biasi, ciao mister. Ciao a tutti, ciao Pier. Proviamo a parlare un po' di calcio. Ad esempio abbiamo sentito Allegri dire: questa partita ci aiuta perché ci riporta con i piedi per terra. L'altro ieri avevamo letto Juventus come il Barcellona, il tiki-taka, questo gioco quasi da PlayStation, e poi ieri sera abbiamo visto una Juventus un po' meno bella, un po' meno Juventus. Sì, Juventus che io però ho seguito nelle ultime 3-4 domeniche dal vivo a Udine, e poi l'ho vista a Chievo in TV, e devo dire una Juve che gioca un bellissimo calcio, con una grande fisicità, con una bella organizzazione, con dei talenti dentro che hanno praticamente metabolizzato il passaggio da una squadra a un'altra, e questo sicuramente era l'aspetto principale sul quale, col quale ha dovuto fare i conti Allegri all'inizio di questo campionato, perché sapete meglio di me che quando un giocatore cambia la società non sempre riesce ad acclimatarsi al meglio e a rendere per quanto può rendere, e io credo che oggi molti giocatori della Juve stiano veramente giocando a livelli alti. Sì, poi un conto è giocare con Khedira a metà campo, un conto è farlo con Padoin, perché c'è stato anche questo, c'è l'allarme infortuni. Sì, però non diamo però tutti i meriti a Padoin, che è un onesto lavoratore di centrocampo e che probabilmente, come in tutte le realtà, c'è un momento in cui si allenta un po' quella che è la tensione. Giochi in casa contro il Genoa, che è un'ottima squadra, io dico un'ottima squadra ben gestita, e che in questo momento qui magari paga a livello di classifica, una classifica non all'altezza, però è una squadra che può metterti in difficoltà in qualsiasi momento, con una buona organizzazione di gioco e con giocatori che possono trovare anche la via del gol. Io credo che sia stata una partita difficile da questo punto di vista. Poi è chiaro che la componente mentale è quella che poi fa la differenza nelle prestazioni, però credo che i presupposti della Juve, che è passato il periodo secondo me brutto, oggi sono i presupposti di una squadra che è candidata insieme a Napoli a lottare fino all'ultimo per vincere il campionato. Sì, questi scricchioli non si vedono, poi fa bene, no, Pier Allegri sempre a tenere tutti sulla corda. Secondo me la notizia di ieri sera è il Napoli che vince davvero con la testa della grande una partita comunque non scontata come quella con la Lazio, e lo fa anche facendo un po' di turnover, cosa che fin qui in campionato da Napoli-Lazio dell'andata in poi praticamente era vietata, proibita. Ma guarda, secondo me, innanzitutto sul Genoa c'è da dire che è una squadra abbastanza matta da questo punto di vista. Sono d'accordo con Peter, nel senso che veramente non ha una bella classifica. È una squadra che perde delle volte delle partite abbastanza assurde, che sembrano alla sua portata, diciamo, non è una squadra regolare. Però è una squadra di quelle, sono d'accordo col mister, che quando è in giornata o quando può giocare magari con meno pressione addosso, può fare anche delle cose importanti. Quindi sono d'accordo il fatto che non fosse una partita semplice quella di ieri. La Juve è stata più brillante in altre occasioni sicuramente, ecco per esempio contro il Chievo aveva mille assenze, però è una squadra nettamente migliore secondo me come risultati che ottiene, no? In relazione alle ambizioni, ma molto più regolare, cioè molto più logica, è una squadra che difficilmente li sorprende, ma che poi magari invece le partite contro le pari grado, diciamo così, le vince, quindi da questo punto di vista sono molto diverse. La Juve è in un grande momento, insomma non c'è molto da discutere. La Juve è in un grande momento, basta guardare quel numero lì, che è il 13, e è chiaro che c'è qualche scricchiolio adesso appunto di fagli infortuni che in Champions in prospettiva potrebbe creare. Sì, è quasi un peccato, Gianni. Quasi c'è il timore che l'apice della forma sia passato, cioè fosse qualche giorno fa, invece mancano ancora un paio di settimane l'andata col Bayern di Monaco. Sì, sono sicuramente tempi però che possono magari permettere a qualche giocatore di poter rientrare, sicuramente non a Cáceres, però a qualche altro del quale non conosciamo la vera identità dei problemi, perché spesso e volentieri certi giocatori vengono lasciati fuori anche per non rischiare di compromettere magari la situazione che al momento è sotto controllo. Io credo che Allegri con lo staff medico stia valutando questi aspetti. Quello che mi piace è che però riesce nonostante tutto a turnare i vari giocatori, Alessandro con all'esterno di sinistra francese, adesso non mi viene il nome, che comunque riescono sicuramente a dare continuità e a mettere minuti in una competizione importante come il campionato per la Juve o la Coppa Italia. Non dimentichiamo anche la vittoria contro l'Inter 3-0 vinta a mani basse in casa. Credo che la Juve in questo momento stia molto bene di testa, e il fatto che Allegri batta come ieri sera sul fatto che non debbano mai mollare è l'aspetto che gli serve per cercare di tenere sempre tutti sulla corda e far capire che se non ci mettono il 110% di quello che hanno, difficilmente riescono a raggiungere gli obiettivi che hanno in testa. Cioè che scrive: per chi gioca a calcio non è facile sopportare tante vittorie consecutive, soprattutto di testa. Poi un altro amico tifoso della Juve, adesso ho perso il messaggio, che ci manda un WhatsApp per dire che teme che sia il Napoli a vincere lo scudetto. Abbiamo meno di un minuto, vi chiedo in rapida successione: cambia molto per il Napoli, per la Juventus, il fatto che a Torino il 13 febbraio molto probabilmente il Napoli ci arriverà davanti in classifica? Gianni, poi Pier. No, non cambia nulla perché è una partita che ovviamente la Juventus cercherà di vincere e il Napoli dal canto suo con una vittoria potrebbe tagliare fuori la Juventus e però ha il vantaggio di avere i due risultati. Da un certo punto di vista è quasi come il ritorno di una sì, partita. Di ma forse può anche permettersi di perdere, non male in fondo di essere lì. Sì, ma non entra nel vocabolario di Sarri. Ma di nessun allenatore, credo. di nessun allenatore. In questo momento qui, quando sei in testa alla classifica, la testa della classifica ti dà anche una determinazione in più, una voglia di farti valere nei confronti dell'avversario in maniera completamente diversa. Grazie mister. Ciao mister. Ciao, noi non lo sappiamo, non lo sappiamo chi è più forte. Sono due squadre perfette, sinceramente. Non abbiamo una sensazione, io non ho una sensazione di chi sia più forte. Posso pensare che nel lunghissimo periodo la Juve abbia un pochino più d'abitudine, ma dal punto di vista della partita secca, della velocità di punta, io in questo momento veramente non so dirti chi è più forte delle due. È chiaro che il Napoli, se arriverà a più due, avrà in testa il pensiero di poter giocare con due risultati. Ha in testa il pensiero che torna a Napoli, che comunque sia campionato apertissimo, qualunque sia la cosa, e non sarebbe stato lo stesso. Se dovesse riuscire a fare l'impresa e torni dopo un'impresa con 5 punti, è vero che mancheranno comunque 12-13 partite, però insomma, sarebbe chiaramente clamoroso. Quindi, però il campionato è lunghissimo, come si dice tante volte, ed è veramente lunghissimo perché siamo appena a febbraio. Io non so chi è più forte delle due, anzi chiediamolo agli ascoltatori. Sì, lo chiediamo, 800-24-0024, c'è chi ci chiede una via di mezzo, se la Juve vince sono gli avversari che si scansano, se fa fatica al fiatone, poi c'è un altro amico che dice non è facile fare 13 vittorie consecutive, ma è difficile anche farne 7 tenendo a distanza un avversario che vince sempre, è vero, anche, c'è anche questo secondo me. Anche questo è un segnale positivo del Napoli, soprattutto ieri sera. Ci fermiamo, c'è la borsa. Quando torniamo, vi diamo la notizia della decisione del giudice sportivo sulla curva nord della Lazio. Torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Convocati. Hamsik per Koulibaly, quindi di testa Jorginho per Albiol. Andiamo a bordo campo ancora da Pietro Pinelli. Pietro. Eh sì, perché l'arbitro interrompe la gara perché il quarto uomo già da qualche minuto aveva richiamato gli ispettori qui a bordo campo per Ibu contro Koulibaly. Adesso ha interrotto la gara e vedremo se ci sarà poi anche l'annuncio da parte dell'altoparlante per far smettere questi cori, però era già da qualche minuto insomma che il quarto uomo aveva richiamato l'attenzione anche qua degli ispettori della Procura federale. Decimo no al razzismo. No to racism. Nei tegen racisme. Non au racisme. No al racismo. No to racism. Allora, scrive Gazzetta.it, è ufficiale, 2 turni di chiusura alla curva nord, 50.000 euro di ammenda alla Lazio per i cori razzisti a Koulibaly e per quelli discriminatori rivolti ai tifosi del Napoli. E questa è la sanzione inflitta dal giudice sportivo, la sospensione dell'arbitro Irrati non ha influito perché la sanzione sarebbe stata la stessa anche senza interruzioni. Questa dunque la decisione del giudice sportivo. Io posso dire, Pier, come penso? Certo. Io penso che 2 sia il minimo e penso che in ogni caso il fatto che ieri Irrati abbia avuto il coraggio di accendere i riflettori su quello che stava accadendo senza girarsi dall'altra parte valga quasi più della sanzione stessa. Sì, sicuramente, perché ha dato una visibilità, anche se nel comunicato c'è una sorta quasi di protezione nei confronti dell'arbitro, no? Cioè si vuole sottolineare il fatto che la sanzione sarebbe stata uguale anche se Irrati non avesse fermato il gioco. Ma Irrati ha fatto bene e secondo me può diventare un precedente importante. Qui non è un discorso di Lazio, Roma, Verona, Fiorentina, Bologna, Inter, Milano, Juve. Qui è un discorso che il razzismo non ha posto nel calcio e non ce l'ha, non ce lo deve avere. Io l'anno scorso ho fatto una delle partite più complicate della stagione è stata quella fra Feyenoord e Roma per mille motivi, dopo i fattacci dell'andata, e a un certo punto l'arbitro ha sospesa, per 10 minuti l'ha sospesa. E se non ci sono delle condizioni minime di civiltà non si può giocare a pallone, questo ce lo dobbiamo ricordare. Da un lato è ovvio che questo dà la possibilità a chi vuole far casino di essere ancora di più protagonista, su questo non c'è dubbio, no? Sì, però l'ascoltatore di prima, però, io non condivido, ma che rispetto, che dice che quello è un modo per danneggiare lo Tito, è comunque una testimonianza e la prendiamo come tale, come uno spunto alla discussione. È chiaro che è un, sì, è una però forma non ci si può fermare lì perché altrimenti si accetta tutto in nome di questo. No. Allora, Roberto da Modena, Antonio da Napoli, 800 24 00 24, insomma, poi c'è chi se la prende con questore di Roma, c'è chi dice che Pioli ha detto il giusto e c'è chi invece lo accusa di aver espresso in fondo lo stesso ragionamento che fece Sarri dicendo che le cose di campo devono restare di campo, no, una sorta ma di omertà. Naturalmente è quello, io ribadisco, Pioli non è razzista, ci gioco tutto, credo sia anche abbastanza progressista fra l'altro come persona, ma non voglio attribuirgli idee che magari non so se ha. Secondo me dice, quando fa il ragionamento sul fatto che anche nella Lazio ci sono dei giocatori di colore, fa un ragionamento di buon senso, però secondo me di fronte a una cosa del genere bisogna avere il coraggio che ha avuto Keita, che ha pubblicato una foto semplice, banale, che ci ricorda che chi ama il calcio non può essere razzista, perché l'unico razzismo che puoi avere tra mille virgolette nel calcio è verso chi si impegna poco, o al limite puoi avere magari l'ammirazione per quelli che il talento e madre natura hanno reso più dotati, e magari invece un po' più di simpatia umana per chi è un po' più scarso, per quelli un po' più scarsi. Ma chi ama il calcio ha amato Pelé, chi ama il calcio ha amato UEA, cioè. Ma di che stiamo parlando? No, comunque per dirti parlando? Il clima, stanno arrivando anche messaggi che se la prendono coi tifosi del Napoli. Ma cosa c'entrano in questo caso? Roberto da Modena. Aspetta, sì. Pier, Roberto da Modena. Pronto? Eccoci. Ciao, buongiorno, grazie di avermi convocato. Grazie a te. Vi dico la mia subito. Secondo me due giornate è una cosa di squalifica, è una cosa ridicola. Perché questo stadio, questi tifosi... Non hanno già dimostrato negli anni che non meritano certe ribalte, ecco, non so, adesso se vi ricordate l'assalto alla birreria, non mi ricordo, mi sembrava il Tottenham o l'Arsenal, abbiamo assistito a degli episodi intorno alle partite della Lazio e della Roma, coltellati, arbitri con la testa spaccata, secondo me l'ambiente dovrebbe dare tutto un altro tipo di messaggio. Sì, adesso senza prendercela con l'ambiente di Roma in assoluto, Roberto. Anche perché e in questo io dico, per carità, la sanzione è ovvio che scatti, però secondo tra l'altro Pier, poi leggeremo, interpreteremo quando ci sarà il dispositivo definitivo. Sì. Io credo che la sanzione sia di una giornata e in realtà la seconda giornata sia perché dal febbraio dell'anno scorso la Lazio era con una analoga sanzione sospesa. Aveva il cartellino giallo, credo sia un 1+1. Come tutte le situazioni, io non sono mai d'accordo quando sono in politica, nel senso, capisco che ci debba essere un provvedimento, penso che ci vadano di mezzo tante persone che non c'entrano nulla, nel senso, io sono convinto che la stragrande maggioranza dei tifosi che erano ieri in quella curva non abbiano fatto pochi. Però detto questo capisco che è l'unico modo per dare una sanzione. La società secondo me può far poco, quindi il famoso discorso anzi può diventare un ulteriore strumento per penalizzare una società. Il discorso che facevamo anche nel passato sulla discriminazione territoriale, non capisco l'ascoltatore che dice che la colpa è del prefetto. Roma, l'ho detto mille volte, io mille volte ho tra virgolette difeso lo sciopero finché è stato pacifico, e finché è pacifico lo difenderò sempre da parte delle curve di Lazio e Roma, perché secondo me questa cosa che c'è a Roma è una cosa comunque senza precedenti, la chiusura della curva non mi sembra uno strumento inefficace, e comunque finché il tifoso protesta in maniera pacifica rinunciando al proprio diritto di andare allo stadio e non crea problemi, merita secondo me grandissimo rispetto. Sì, quello che meglio di quello cosa. Che abbiamo visto ieri. C'è chi dice che il questore doveva fermare tutto e non far riprendere la partita, c'è chi dice Stefano da Udine, così facendo. No, l'ultima decisione è del questore, del responsabile dell'ordine pubblico, è lui che può mandare tutti a casa. Questo dice il regolamento. Il Rati si è spinto fin dove poteva spingersi. E ripeto, sentendo Pioli e magari tra le righe altri, io credo sia stato coraggioso. Antonio da Napoli, Antonio. Pronto e buongiorno, grazie. Eccoci. Per la convocazione. Vorrei rimarcare proprio quello che lei stava poco fa dicendo, il grande coraggio dell'arbitro che ha avuto gli attributi per fermare e minacciare la sospensione della partita e invece la mancanza di coraggio di qualche addetto ai lavori che ha detto che la partita non andava sospesa. Ora io mi chiedo che fino a quando ci sarà gente che ragiona in questo modo il calcio non potrà mai migliorare. Anzi, se i giocatori di colore facessero fronte comune per diciamo ribellarsi anche a favore del collega dell'altra squadra per i cori razzisti che spesso avvengono nei confronti dei giocatori, sarebbe una cosa che avrebbe senz'altro un effetto nell'ambiente. Per quanto riguarda i cori napoletani, noi ci abbiamo fatto oramai l'abitudine, tanto sì, consideriamo la provenienza di questa, dei cori da parte di questa gente che nel cervello ha solo l'etame. E comunque i 50.000 euro, così rispondiamo ad alcuni messaggi che stanno arrivando, i 50.000 euro di multa sono per quei cori lì, quelli per discriminazione territoriale, per i quali non vale più, non c'è più il rischio della squalifica. Marco da Bari, Marco. Buongiorno. Eccoci. Senta, io ormai tutte le domeniche se ne sente uno in ogni stadio, in parte del mondo. Ma non è il caso di fermare veramente tutti i campionati e dare un po' di ordine, rimettere un po' le cose a posto in questo calcio? Ma credo, Marco, che basterebbe fermare chi è responsabile del disordine e far andare avanti gli altri. Sì. Rispetto, io adesso non voglio essere il solito ottimista, però io credo che se noi guardiamo quello che succede oggi rispetto a 10 o 15 anni fa, c'è un miglioramento complessivo, una riduzione significativa degli episodi di violenza negli stadi e nelle zone limitrofe agli stadi. Questo secondo me dobbiamo, senza montarci tra virgolette la testa, senza cantare vittoria, però va registrato, perché altrimenti non siamo coerenti. Questa è stata fatta anche, devo dire, con degli strumenti abbastanza liberticidi, sui quali non sono d'accordo, perché a me le schedature non piacciono. Io penso che una persona, finché fino a prova contraria, è innocente, quindi non è che possa essere privata dei suoi diritti o schedata preventivamente. Però devo anche riconoscere che dal punto di vista degli episodi criminali il clima degli stadi italiani, secondo me, è molto migliorato negli ultimi anni. Si assiste molto di più a questi crimini della parola, a queste... Sì, al becerume l'abbiamo chiamato. Becerume, minchiate è anche qualcosa di più. Sì, ma c'è anche proprio un elemento di noia, c'è anche un elemento di poca fantasia in queste robe qui. Secondo me c'è un elemento di rottura, Pier. Aspetta però perché siamo in ritardo per il traffico. Intanto saluto Michele Plastino. Ciao Michele. Ciao a tutti. Da cui ripartiamo subito dopo il traffico. Un minuto. Tutti convocati. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Tutti convocati. Sì, non è brutto sentire queste cose, ma è l'arbitro alla fine, è lui che deve decidere, penso che è stato bene. Koulibaly come ha reagito? Bene, lui sta bene, sa che è brutto da sentire, ma lui ha continuato a giocare come sa. Michele Plastino, ciao! Ciao caro. Allora, razzisti o come in tanti ci scrivono, voi non capite nulla di quello che succede a Roma, vogliono solo colpire Lotito, è una questione interna. Cosa succede all'Olimpico? Cosa è successo? Allora, ci ho passato tutta la notte nel tentativo, in alcuni casi vano, sai, su Facebook, su Twitter, per rispondere a questa stessa tua domanda, nel senso che, o meglio, ho ricevuto le stesse lamentele che stai ricevendo tu, io l'ho ricevute per alcuni miei post sull'argomento. Cosa sta succedendo? Io credo che ci sia bisogno di una profonda distinzione. Apro una parentesi in relazione a quello che diceva Pier prima, che era molto molto giusto. È vero pure che ci va meno gente allo stadio, quindi è anche tutto relativo, e purtroppo un anno e mezzo fa, se non sbaglio, c'è stato quel terribile omicidio anche di Ciro Esposito. Però in complesso ha ragione indubbiamente Pier sa che la mia è una lotta forse anche vana da circa 15-16 anni per quello che riguarda Roma. E ti posso fare una fotografia cercando di sintetizzare il più possibile. Ci sono due cose distinte: una, la contestazione all'ultimo, l'altra è il ripetersi di questi cori. Però c'è da ricordare un fatto che è molto importante. Lungi da me qualsiasi idea di ruffianeria, perché loro lo sanno che con il rispetto del, tra virgolette, nemico, io ho sempre detto quello che penso. Gli ultra, quelli diciamo ufficiali, quelli della Curva Nord, ieri non c'erano. E questa è una nota importante. Sì, l'abbiamo detto, quei pochi appunto che c'erano nella curva, perché per i fatti noti ieri la curva di fatto era già mezza deserta. Appunto, anche di più di mezza deserta. Allora bisogna capire se c'è una occupazione di territorio, perché purtroppo è sempre lì, no? Il discorso è un discorso sociologico, culturale, ovviamente territoriale, cioè l'appartenenza di un territorio. Io non la faccio lunga perché tante volte ne avete parlato voi e tante volte ne ho parlato anch'io. Ieri questa storia che i bu venivano fatti, oppure i cori contro i napoletani, per far prendere la squalifica o eventualmente la multa allo Tito, a mio avviso lascia un po' il tempo che trova, perché se si fosse scelto un altro sistema, che ti devo dire, una finta invasione di campo per poi rientrare, sto sollecitando una cosa che ovviamente non violenta, no? Allora si poteva capire perché è stata fatta questa cosa strana per colpire lo Tito, e qui poi si può discutere quanto sia giusto, quanto non sia giusto, eccetera eccetera. Però rifare le cose che purtroppo vengono fatte da molti anni, l'unica vittoria, voglio dire, di un vecchio combattimento che non era solo mio, ovviamente anche se eravamo in pochi, è stato perlomeno in tanti anni di aver levato la possibilità delle svastiche, delle situazioni antisemite, perché purtroppo anche sì, questo, c'era, no, anche quello, c'è stato per tanto tempo. Avveniva almeno quello. Adesso si è diretti con questa cosa famosa, tristissima, dei bu, dove si dovrebbe richiedere ovviamente anche poi l'intervento dei tantissimi giocatori neri della propria squadra, quindi perché è veramente paradossale, quindi più che razzismo è veramente ignoranza, no? È colpire un po' alla cieca sul debole un avversario, perché altrimenti i bu, no, accadrebbero anche con i giocatori della propria squadra, e ci fu una lotta, iniziò tutto dall'acquisto di Winter tanti anni fa. Sì, ma anche se questa però, Michele, Pier, non so cosa ne pensi tu, è anche un po' una foglia di fico, quella di dire non siamo razzisti perché i neri li abbiamo anche noi e non li insultiamo. No, secondo me, guarda, io ho fatto l'autobiografia di Eto'o, io penso che qualsiasi persona, io sono sicuro che qualsiasi persona, se poi dovesse ascoltare la testimonianza di una persona di colore che gli racconta il disagio, l'umiliazione, il senso di rabbia che deriva da una roba del genere, se anche nella vita per conformismo, per fare una battuta, per giocare con gli amici, gli è venuto in mente di fare quei bu, non lo farebbe più. Quindi secondo me hai ragione. Essenzialmente è un discorso di ignoranza. Io sono convinto di questo, sono convinto che sia così, come sono convinto che i cori sul Vesuvio, ce lo diceva anche l'ascoltatore prima, sono spesso una tristissima moda, un'emulazione, una cazzata che viene fatta così per marcare un territorio, per dire che tifi per l'altra squadra. Però è proprio questa la battaglia culturale. Michele faceva riferimento agli anni 90, che sono stati anni a Roma pieni di croci celtiche, di svastiche, insomma, di connotazione politica. In altre parti d'Italia ovviamente le connotazioni politiche sono diverse, e oggi rispetto a quel tempo lì, quella cosa lì, quella moda tra virgolette, penso che sia passata, no? Nel senso che non si vedono più quei simboli. Ci sono cose sulle A proposito di cultura, vi leggo due messaggi che sono arrivati praticamente insieme. Uno è Cristiano che dice: allo stadio si deve andare come a teatro, ognuno per sé, si compri la seggiola e si guardi lo spettacolo, occorre vietare il tifo organizzato. E poi c'è un altro amico che scrive: Claudio, sarò un sempliciotto, ma a me un po' di folklore non dà fastidio. Se uno che guadagna milioni ha problemi psicologici, che si curi o esca come ha fatto Boateng. Ma per carità, scusami. No, te l'ho letto apposta, li ho letti tutti e due. Sì. Scusami, io questa notte ho letto un post dove mi si diceva: io pago il biglietto, e quindi nel pagare il biglietto ho diritto anche di fare bu. Cioè, quindi, di che stiamo parlando? Il problema, e ripeto, rimbalzo quello che avevo detto io, dando ragione ancora una volta a Pier, è un problema di ignoranza, perché è vero che è una foglia di fico, sono d'accordo, però se tutti i disagi che può provare un giocatore nero di fronte a tutto quello che accade, io credo che chi lo fa, ma neanche si rende conto, non c'ha la sensibilità, a mio avviso, per capire questo. Ci vuole qualcuno che glielo dica, poi può darsi che tra i 100 che lo fanno, se qualcuno spiega lui tutto quanto, magari dei 100 poi ne rimangono 20. È una storia purtroppo triste, che è una storia di società che viene trasferita allo stadio, perché è un ghetto, è un ghetto pacchetto culturale, anzi sottoculturale, e qualcosa bisogna fare, perché poi si penalizzano i tanti, tantissimi appassionati veri. Per Napoli aggiungo solo una cosa: sì, sarà una moda triste, sarà quello che vogliamo, ma Napoli, a differenza di Roma, Milano, eccetera, ha purtroppo sempre vissuto di etichette dagli altri parti. È vero, dicono, hanno detto Roma bastardi, queste cose, questi sono gli insulti terribili da stadio, ma non c'è in giro la voce che i romani sono tutti bastardi. Napoli hanno dovuto sopportare la fama di Marioli, la fama sei napoletano, per tutta una vita, quindi mi sembra chiaro che ci possa essere un risentimento particolare, sì, nel momento che ti vai a divertire allo stadio e te lo senti sbattuto in faccia. Tutte non riguarda solo Roma, e non riguarda solo Roma, perché poi io no, direi quello riguarda poi un po' ovunque. Esempio l'arbitro, lo facciano anche negli altri campi. C'è anche un amico che ha scritto, e io sottoscrivo, la follia è che stiamo qui a fare i complimenti di Errati. Errati dovrebbe essere la normalità, però purtroppo prima di Errati era successo solo una volta, e il tema è questo. Per questo ieri Errati ha abbattuto un muro, e secondo me è stato coraggioso, e è anche giusto che venga sottolineato. Enrico, prego. Una cosa, il vero tema poi è quello che in qualche modo ci suggerisce l'ascoltatore, cioè allo stadio bisogna andare come a teatro. Io, sapete come la penso, pur non essendo mai andato in curva, io penso che nelle curve, come in tutti i luoghi, innanzitutto di libera aggregazione della vita, per cui non le puoi chiudere per decreto, sarebbe assurdo farlo. Ci sono cose belle e ci sono cose meno belle. Mi sembrerebbe veramente una sconfitta. E la cosa che mi fa più male di quello che è successo ieri è che la cosa che succede ieri finisce per gettare discredito su tutte le curve italiane, sull'idea che dei gruppi di ragazzi che si radunano insieme siano per forza dei razzisti o siano per forza dei violenti. Questo secondo me è molto triste, perché io non ci sono mai andato, ma conosco tanti ragazzi che sono andati in curva e penso che la curva sia un luogo nel quale, come in molti altri posti della vita, ci sono dei pericoli, ci sono dei rischi, ma ci sono anche delle forme di aggregazione che possono essere molto belle, che possono essere molto solidali, e quindi io in questa generalizzazione non mi ci trovo mai, forse io e te già siamo diversi da questo punto di vista, però penso che chiaramente quando succedono cose come ieri, poi finisce tutto il mondo ultra, tutto il mondo di chi frequenta questi gruppi finisce sotto accusa, perché è molto difficile per me oggi fare un ragionamento. Non era diretto a me, vero? No, era diretto a me. Abbiamo una posizione profondamente diversa sulle questioni legate alle curve. Perdonatemi, sono anche d'accordo invece su questo. Io ritengo addirittura che ci dovrebbe essere una rivoluzione interna culturale, per lo stesso motivo che dice Pier, perché non sono tutti così. È chiaro che dall'idea del sopravvento chi fa più rumore. Io sono addirittura per il coinvolgimento delle curve nelle politiche sì, sull'ordine pubblico. Il problema Pier, che già avviene. E ne abbiamo avuto testimonianza domenica sera, quando malgrado il nuovo regolamento, malgrado tutto, i funzionari della Digos hanno preso e hanno portato i capi ultra dell'Inter a fare il cazziatone alla squadra. Di che cosa stiamo parlando? Sono già coinvolti. C'è già questo. Ricordatevi le parole di Morgan De Santis l'anno scorso: non siamo mica noi che andiamo a parlare con gli ultra. Lo facciamo perché veniamo portati spesso e volentieri. Vi devo fermare e vi devo salutare perché c'è il GR. Grazie Michele Plastino. Grazie a voi, grazie, ciao Pier. Tanto noi andremo avanti, perché purtroppo queste cose capiteranno di nuovo. A domani. Ciao. Comunque non puoi, il problema di poi di fondo è che non puoi impedire a un ragazzo di 20 anni di andare in piazza o di andare in curva. Non lo puoi fare, secondo me sarebbe assurdo pensare di poterlo fare. L'unica cosa che puoi fare è diritto, la legge, quindi chi sbaglia, chi realmente ha fatto un buco, chi realmente delinque deve essere cercare punito, di essere selettivi il più possibile. Selettivi e responsabilizzare le curve a comportarsi bene, perché se non si comportano bene poi tutto il loro movimento si fa di tutta erba un fascio e quindi ci sono le squalifiche e poi passa il silogismo che il tifoso di curva è per forza un violento, e io non penso che sia così. Ciao Pier. Ciao. A domani. C'era Enrico da Varese, ripartiamo da lui dopo il GR, grazie, ciao. Ciao Bardo, ti voglio bene. Tutti convocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Si allarga, il cross basso per Niang, c'è Bocca e il Milan la sblocca con Carlos Bocca, 1-0. Ma io ricercavo le risposte e le ho avuti. Il nostro obiettivo era oggi di avere continuità della prestazione e vittoria, e sono arrivate tutte e due. Perciò la squadra sta crescendo. Il primo tempo abbiamo dominato, il secondo tempo abbiamo gestito la partita. Sicuramente per quella battuta che ho fatto, oggi siamo stati un ottimo spumante. Per essere champagne dovevamo chiudere la partita, fare terzo gol nel secondo tempo. Abbiamo provato ma non siamo riusciti, ma ci siamo accontentati, e questa è l'unica pecca, che l'unica cosa che non mi è piaciuta. Possibilità per il Chievo in questo finale. Eccolo il cross di Castro, deviazione di Miranda. Poku sta caricando il destro, deviato da Juan Jesus. Frey la rimette dentro, Inglese dall'altra parte, colpo di testa, Miranda libera, Medel. Arriva il fischio finale adesso. Che sofferenza per l'Inter. Sinceramente negli ultimi minuti mi sono venute in mente tante cose, ricordando un po' le ultime partite, però onestamente bisogna poi pensare alla prestazione. L'Inter ha creato tantissimo, ha avuto tantissime situazioni per fare gol, c'è stato un grande portiere di fronte, però alla fine l'abbiamo vinta. L'ho detto anche ieri, serviva comunque, anche 1-0 era quello che ci voleva, perché contano i tre punti e in questo momento va bene così. Contano i tre punti, ma gli ultimi 3-4 minuti dell'Inter ieri contro il Chievo a San Siro sono stati qualcosa di inquietante. Da lettino dello psicanalista. 800 24 00 24, Enrico dalla provincia di Varese. Enrico. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a te. Io volevo tornare sul discorso Koulibaly e razzismo. Sì. E volevo dire che sinceramente sono state dette tantissime belle cose, però io inviterei a ritornare un po' a non esacerbare i toni, perché alla fine il vero razzismo purtroppo lo vediamo in altri campi, lo vediamo dove vanno a raccogliere i pomodori o le arance per 10 euro al giorno, e queste persone che tutto sommato sono dei professionisti strapagati, è giusto che si sentano offesi, però bisogna stare attenti a non creare santi ed eroi. Ma io credo che però, Enrico, il razzismo sia razzismo qualunque sia il conto in banca, che tu prenda 20 euro al giorno, lo scrive anche un amico via sms 349-238-6666. Bisogna pensare ai raccoglitori di arance di Rosarno umiliati tutti i giorni, ed è giusto denunciarlo, e viene fatto, e bisogna anche che su queste cose si muovano poi le istituzioni, si muova la magistratura, chi ne approfitta venga punito. Però anche per la grande vetrina che è il calcio, io credo che non si possa non parlare e non sottolineare, non accendere i riflettori quando queste cose accadono in un campo di calcio, in uno stadio, e quando la vittima magari non prende 20 euro al giorno ma prende milioni di euro. È razzismo lo stesso, Enrico. Luca da Milano. Luca. Sì, buongiorno. Io vorrei dire due cose. Intanto ieri ero allo stadio a vedere la Juve, le dico, la squadra era svogliata, non è che mancava fisicamente. Poi parliamoci chiaro, cioè il Genoa è venuto a Torino che secondo me è la squadra più inglese che abbiamo nel nostro campionato, perché è molto fisica, con un marcatore fisso su Marchisio, e se non è nessun altro che fa gioco la situazione è quella. L'altra cosa che vorrei dire è una notizia che ieri ha circolato allo stadio, che finalmente i tifosi del Napoli quest'anno non verranno a Torino a distruggere lo stadio come fanno di solito. Non è che è circolata allo stadio, è così, è chiuso il settore ospiti per Juventus-Napoli. È chiuso anche perché all'andata quello del San Paolo a sua volta non era stato aperto per i tifosi della Juventus. È così da due stagioni. Io so che gli amici da Napoli non sono contenti di questa cosa, però, ed è il principio che ha affermato il questore di Torino, esiste anche un po' di reciprocità. Se tu non puoi ospitare nel tuo stadio per varie questioni che non stiamo a ripercorrere per due stagioni i tifosi ospiti dell'altra squadra, ci può anche stare che poi ti sia vietato l'ingresso per la partita scudetto. È un peccato, ma ci può anche stare. Fabrizio Bocca, ciao Fabrizio. Caduta la linea. Mi fate sentire Paolo Sosa, ieri trasfigurato dopo il 2-0 il 2-1 della Fiorentina sul Carpi. Io l'amore nel processo, perché io ho progetti, già detto già diverse volte, nel calcio è difficile incontrarli, comunque questo è un processo che ha un inizio, non esiste un fine, c'è un continuo lavoro, perché questo chiamo far di più. E dopo con questi ragazzi c'è uno va a fine mondo, perché ci credono a quello che proponiamo, ci credono a loro stessi, per questo sicuramente continuando così insieme a questa città sicuramente possiamo arrivarci a un'impresa importante. Presa importante che si chiama Terzo Posto, abbiamo recuperato il collegamento con Fabrizio Bocca. Fabrizio. Sì, ciao. Eccoci, ululati discorsi sul razzismo a parte, tra la terza che è la Fiorentina e la sesta che è il Milan ci sono 6 punti che non sono pochi, Fabrizio, però l'impressione è che siccome stanno meglio quelli dietro sia davvero tutto aperto, sia anche questa una grande volata fino a maggio. Ma sì, io penso che il campionato sia tuttora un grande rimescolamento di valori, un sovvertimento rapido di classifiche, si vede benissimo che il Milan può rientrare, la stessa Inter, se tutto sommato basta che riprenda a vincere 1-0 le partite, tutto sommato può recitare il ruolo suo, e la Fiorentina, se riesce a trovare quella continuità che ogni tanto le manca. Poi secondo me in questi casi gioca un ruolo anche proprio la semplice fortuna, ossia prendi Zarate e ti fa quel gol lì, prendi El Shaarawy che sembra un giocatore finito e invece segna in 2 partite consecutive, quindi evidentemente c'è un fattore, diciamo così, fortuna. Sì, c'è un fattore casualità, prendi Berardi, esatto, che è un rigore del 90° lo segna, esatto, e l'altro esatto, lo spara, esatto, in curva, certo, certo. Però giustamente poi qualche amico scrive e ricorda che chi ha subito il rigore di Berardi ha vinto anche partite al 90° con l'Atalanta, col Carpi, certo, insomma poi alla fine i valori vengono fuori. Ho detto certo prima gli ultimi 3-4 minuti dell'Inter ieri contro il Chievo da lettino dello psicanalista. Sì, sai, l'Inter è tutto il campionato che gioca in questa maniera. Secondo me, quando la squadra avrà recuperato, diciamo così, un rapporto equilibrato con Mancini, con Icardi, con i suoi protagonisti, probabilmente troverà anche una stabilità maggiore. Però a me sembra proprio la squadra costruita, diciamo, in maniera così, non è una squadra decisamente imperfetta, in cui c'è un andirivieni di giocatori, di moduli, di sistemi di gioco abbastanza discontinuo, insomma, per cui è normale secondo me ritrovarsi in quelle situazioni. Però insomma, ripeto, secondo me l'Inter e il Milan comunque un loro ruolo lo avranno alla fine del campionato. Ieri Pallotta dagli Stati Uniti ha detto che non ha mai visto lavorare a Trigoria come nelle ultime 3 settimane. Sì, l'ho visto. Ma insomma, se guarda, anche queste sono cose da tarare molto. Adesso gli allenatori hanno sicuramente delle loro responsabilità, che però, diciamo così, le squadre non lavorino. A questo ci credo poco, è evidentemente il come lavori e il cosa fai, che poi Spalletti sia un martello lo è indubbiamente, è uno molto, molto sofisticato nella ricerca degli schemi, della tattica, ma così come lo sono molti altri allenatori. A me è impressionato della Roma, della partita col Sassuolo, il crollo nell'ultima mezz'ora, crollo fisico, che credo sia la peggiore notizia. Quella buona è che se vinci una partita così, vinci la partita col Frosinone dove comunque soffri, magari ti fai quel tesoretto di punti che quando le gambe cominceranno nuovamente a girare potrà servirti per inseguire di nuovo quel terzo posto. Ci andrei ancora con le molle, perché le partite che ha vinto le ha vinte, ma appunto quella col Sassuolo, come dicevi tu, l'ha vinta con parecchio batticuore alla fine. Ha vinto contro un Sassuolo che ultimamente sta perdendo qualche colpo, ha vinto contro il Frosinone che è una squadra che praticamente gioca senza difesa, e quindi ed è insomma veramente a un passo dalla dalla Serie B, quindi insomma deve cercare la Roma una vittoria importante. Bisogna vedere se la Roma riuscirà a ottenere una vittoria importante, solo quello ci farà capire se è tornata una grande squadra o meno. Sì, credo giudizio anche rimandato per il Milan, che pure ha trovato un minimo di continuità, ha ritrovato Berlusconi con l'entusiasmo di scendere nello spogliatoio, farsi selfie. Non so se questo sia una buona notizia per il Milan, per Mihajlovic, che mi pare abbia il merito di aver compattato molto attorno a sé la squadra. Ha semplificato tutto. Guarda, secondo me l'aver trovato due attaccanti che comunque fanno coppia fissa e ormai funzionano come Bak e Niang, tanto da insomma da non far quasi parlare più di Balotelli, no? Nessuno parla più di Balotelli, è molto positivo, perché la partenza era stata sicuramente negativa anche di questi giocatori importanti, soprattutto Bak, insomma non buona, ecco, di Bak. Invece il contributo in gol di un giocatore poi è sempre fondamentale, perché poi anche se gioca molto spesso un po' avulso dal resto della manovra, poi magari ci sono quel momento o due della partita in cui lui c'è, fa il gol che deve fare, poi si glissa di nuovo. Sì, però comunque serve. Credo che pochi tra i tifosi del Milan, pure molto critici con il mercato di Galliani, possano imputargli i 30 milioni spesi per Bacca, almeno non oggi, o almeno se esiste un po' di coerenza di pensiero. Bacca è stato un ottimo acquisto, come forse Romagnoli, come vedremo Bertolacci, e forse andrà rivalutata l'estate degli 86 milioni di Galliani per la prima volta dopo anni con in mano un po' di soldi. Assolutamente sì, diciamo che alla distanza il Milan sta vincendo il confronto col mercato dell'Inter, insomma. Quello è stato che è una notizia, considerato la contestazione a cui è sottoposto Galliani ormai in maniera fissa. Grazie Fabrizio. Ciao, grazie a voi. Ciao. Grazie Fabrizio Bocca, 800 24 00 24, Claudio da Verona. Sì, buongiorno, grazie di avermi convocato. Buongiorno, io volevo intervenire per la prima vittoria del Verona, sì, Hellas, evento ma storico. Soprattutto per la goliardia dei propri tifosi, che sul 2-1 si sono messi a cantare, non so, si è sentito benissimo su Sky, sì. Vinceremo, vinceremo, vinceremo il tricolore, è una tifoseria veramente fantastica, e tale goliardia l'hanno trasmessa anche a Tony, che all'uscita degli spogliatoi a fine partita cantava anche lui vinceremo il tricolore. Siamo grandissimi, siamo oltre, come tifoseria siamo oltre alla tifoseria stessa. Sì, come ecco, sostegno alla squadra, Claudio, hai perfettamente ragione, e tra l'altro a maggior ragione in un'annata in cui è chiaro purtroppo da settimane insomma quale dovrebbe essere il destino del Verona, poi su altri ambiti lo diciamo, perché oggi è la giornata tifoseria del Verona come altre rivedibile, ma sul modo in cui sta accompagnando questa stagione del Verona non c'è davvero nulla da dire. Alessandro da Grosseto. Sì, buongiorno, grazie alla convocazione. Eccoci. Senta, io le volevo chiedere innanzitutto cosa pensava dell'espulsione di Zaza ieri. Sì. Che secondo me è assurda. Assurda perché non ci stava? Secondo me no, cioè quello è un chiaro fallo da ammonizione, ma l'espulsione, cioè a un giocatore diretto in quel modo è un chiaro fallo da dietro, scomposto, fuori contesto. No, Alessandro, io non sono d'accordo, secondo me era un fallo da rosso, però prego. Va bene, e poi gli volevo chiedere, visto che ora su Cáceres ha un infortunio piuttosto serio, sì, e in difesa abbiamo già dei problemi con Bonucci e Chiellini a quanto sembra, e ora la sfida col Napoli, sarei curioso di sapere come si presenterà la difesa della Juve e cosa ne pensava in questo senso. Ma credo che Chiellini, Bonucci e Barzagli sarà la difesa contro il Napoli, e se tutto va bene anche contro il Bayern Monaco. Mi pare di aver capito che la precauzione su Chiellini sia figlia proprio del calendario e degli impegni che stanno arrivando, ma sia solo precauzione. Bonucci e Barzagli comunque sono al momento abili e arruolati, e quindi la perdita di Cáceres è grave, perché priva la difesa della Juventus della sua prima alternativa in panchina. Però se non succede altro, però la Juventus sta perdendo un po' troppi giocatori, la difesa è quella ed è quella titolare. Enzo Bucchioni, ciao Enzo. Buon pomeriggio, ciao, ben ritrovati, ciao Giovanni. Ti leggo dichiarazione di Andrea Rog, dirigente della Fiorentina. Paolo Sosa ha un contratto con noi e resta anche l'anno prossimo. Non una bella dichiarazione a inizio febbraio. È la spia evidentemente di un rapporto che si è logorato, si rovina, rischia di trascinarsi fino alla fine dell'anno. Ma è un'altra storia montelliana, perché anche l'anno scorso più o meno è andata così, purtroppo. C'è questo sempre distacco fra la società e l'allenatore che diventa incomprensibile. Io credo che un buon allenatore, non per stare con la società sempre comunque, un buon allenatore debba imparare anche a fare il meglio possibile con il gruppo di lavoro che la società gli mette a disposizione. Cioè, anch'io vorrei, che ne so, lavorare al New York Times, non mi è mai toccato, probabilmente questa era la mia dimensione, faccio un esempio così banale. Paolo Sosa ha fatto benissimo fino ad oggi, però se uno pensa di poter dire sono stato bravo io senza pensare che la società gli ha messo a disposizione un buon gruppo, è fuori strada. E poi se pensa di allearsi con i tifosi e mettere in minoranza la società, questo è un errore colossale. Questo sta succedendo a Firenze. Lo striscione di ieri sera è sintomo di un malumore incomprensibile. La situazione è paradossale, se vuoi pirandelliana. C'è una squadra che in testa alla classifica, la società viene contestata. Cosa deve fare di più? Sì, però i Della Valle prima del mercato avevano, credo la battuta fosse, non arriveranno delle sole. Ora, ieri Zárate ha compiuto un miracolo. Però io credo che la valutazione sia dei tifosi, ma non solo, perché basta leggere qualche pagella quello che è stato il mercato di gennaio, sia che la Fiorentina ha spostato poco la sua qualità e lo ha fatto in un'annata in cui può arrivare terza, perché lo scudetto della Fiorentina è quello, non è certamente competere con Juventus e Napoli. No, certo, su questo sono d'accordo anch'io. La società poteva fare di più, non l'ha fatto, secondo me sprecando una grossa occasione, perché se investi oggi e riesci a conquistare la Champions, arrivare almeno terzo, comunque rientri nel capitale che hai investito. Quindi dal punto di vista economico e anche calcistico si doveva e si poteva fare di più. Su questo non c'è alcun dubbio, ma da lì che l'allenatore si metta a avere dubbi sulla sua società e i tifosi addirittura a contestare una società che ti ha portato al terzo posto, mi sembra che ci sia un lasco troppo forte. Questa società ha il settimo budget, ha davanti il Milan, ha davanti l'Inter, ha davanti la Roma, la Lazio, tutte squadre che ora in classifica sono dietro. Quindi avrà lavorato bene o no? Questo è il grande punto interrogativo. Poi si può fare tutto meglio, questo non c'è dubbio. Anch'io avrei comprato due giocatori da 10 milioni sul mercato di gennaio e probabilmente avrebbero arricchito di più la rosa. Probabilmente. Però questa è la Fiorentina. Se magari questi 5 che hanno comprato, poi il campo ci dice che sono 5 acquisti importanti, fra un mese staremo qui a smentirci e a dire brava Fiorentina. Quindi mi sembra un po' strana una situazione. Ripeto, se una curva contesta quando si intesta la classifica, non so quelli che sono in fondo cosa devono fare. Sì, è vero, ed è uno dei paradossi, anche se poi... situazione che abbiamo vissuto anche a Napoli ad inizio stagione, sì, con il presidente De Laurentiis che ha tenuto Higuain, ha tenuto tutti i grandi giocatori della rosa, e se vi ricordate all'inizio San Paolo era vuoto, deserto, perché non ci andava nessuno. Grazie Enzo. Grazie a voi, è sempre un piacere. Ciao Giovanni, a presto. Ciao Enzo. Parliamo un po' di rugby. Giacomo Bagnasco, buon ciao pomeriggio. Sabato ore 15:30 al debutto dell'Italia nel Sei Nazioni a Parigi, contro la Francia. Siamo quasi all'anno zero. Debutto dell'Italia, ma soprattutto debutto di ben 4 giocatori nuovi tra i 15, 2 3 quarti sono Davide Odiete e Mattia Bellini, che addirittura arrivano dal campionato di eccellenza, quindi non dall'elite costituita dalle due super squadre italiane, Zebre e Benetton, e 2 novità assolute in prima linea, un reparto ovviamente cardine, sono Andrea Lovotti delle Zebre e Ornel Jega appunto del Benetton. Una squadra rinnovata in parte perché è finito un ciclo quadriennale dei mondiali, e anche la Francia, che affronteremo, ha molte novità, tra cui un giocatore che praticamente si dedica quasi esclusivamente al rugby a 7, però sicuramente molto hanno contato gli infortuni. È un'annata di transizione invece che un'annata di ripartenza vera e propria, perché il CT è ancora Jacques Brunel. Comunque la seguiremo tutta, e se lo possiamo dire la seguiremo ancora più del solito anche su Radio 24, perché da domani parte uno speciale Sei Nazioni che spalmeremo anche sul sito del Sole 24 sì, Ore. Anno di transizione che equivale a dire che soffriremo più di quanto siamo abituati tradizionalmente negli ultimi anni a fare questo... in questo grande torneo che ci ha visto entrare bene e poi pian piano perdere un po' di entusiasmo. Beh sì, siamo entrati bene perché abbiamo vinto una partita, poi ne abbiamo perse 14. Diciamo che comunque sia, è un anno difficile per tutti. Si riparte, ci sono due. Sono tutte squadre deluse perché l'Europa è rimasta completamente fuori dalle semifinali dei mondiali. Però il Sei Nazioni è sempre il Sei Nazioni. Sì, è sempre un'avventura meravigliosa che, ripeto, quest'anno racconteremo con particolare attenzione su Radio 24, su Sole 24 Ore e su tutti gli strumenti comunicativi che ci legano. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Federico Binda in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani, dopo il GR delle 14, torna con Pierluigi Pardo anche Carlo Genta. C'è chi scrive: quasi nemmeno i giocatori del Napoli possono andare allo stadio, figuratevi i loro tifosi. Ma per carità, a domani. Arrivederci ragazzi, ciao!